Radio Wombat. Thank you.

tears I've ever missed. Spent it with animals. Leonard, meals, us. Eating, but none does it objects us. Spent years, and I. And dry like my tears. From both, from this. Do and about. Buonasera amici ascoltatori, buonasera e benvenuti a una nuova puntata di 8 Hz qui su Radio Wombat. Stasera mi sentirete parlare poco, ma invece ascolterete tanta musica, anche se i brani poi alla fine sono solo 4, ma sono brani molto lunghi. Chiamarli brani forse non è neanche proprio azzeccato, perché più che brani sono delle vere e proprie composizioni, delle opere o operette elettroniche o ambientali di sperimentazione. Quella che avete appena sentito era un'opera, appunto un brano di Ty Paul Sandra, ovvero il terzo o quarto dei Coil, sopravvissuto insieme a Drew McDowell. Gli altri due purtroppo sono deceduti anni fa. Loro non sono i membri fondamentali, ma hanno fatto tantissimi album insieme e tra l'altro anche molto belli. Lui era Ty Paul Sandra, il brano si chiama The More I Know Men, The Better I Like Dogs, tratto dall'album The Golden Communion, uscito per Edition Mego, una etichetta molto molto valida. Tra l'altro è il primo album che esce suo per questa etichetta, è l'ultimo credo che abbia fatto, del 2015. È un disco che è uscito in 3 LP o doppio CD, quindi è un'opera molto grande. Le composizioni sono 10 e spaziano dai 4 ai 28 minuti. Io ho scelto ovviamente quella più estrema di 28 minuti. E sì, è proprio una sorta di concertato di suoni e di interventi timbrici, come se fossero pennellate espressionistiche, diciamo. In questo brano ci ha suonato anche Sion Orgon e Martin Shellard, e inoltre appare anche la voce appunto di John Balance dei Coil, che nel 2015 era già morto, per cui non so bene come abbiano fatto, se il brano era vecchio e poi è stato rimanipolato. Insomma, c'è di tutto, dalle percussioni metalliche o elettroniche al pianoforte, a un sacco di tastiere che è un po' e sintetizzatori, che è un po' il suo marchio di fabbrica. Andando avanti, sempre parlando di Ty Paul Sandra, è uscito invece nel 2018, proprio alla fine, credo a dicembre, un disco fatto da lui insieme a Massimo Pupillo, il bassista degli Zoo e anche musicista eclettico che ha suonato e sta suonando negli ultimi anni con tantissime persone, tutte tra l'altro di un'importanza non indifferente nel panorama della musica contemporanea. E questo duo che hanno formato si chiama Uruk, e ora vi faccio sentire un brano tratto dal secondo disco, che si chiama Mysterium Conjunctionis, uscito per Easy Dallaire, che è un'etichetta francese, anche questa molto molto affermata, diciamo. Allora, Mysterium Conjunctionis tra l'altro è un libro, l'ultimo libro di Carl Gustav Jung. È un libro molto difficile, che l'ha impegnato negli ultimi anni di vita. È un po' la summa delle sue riflessioni sull'alchimia, quindi insomma, alchimia come base, secondo lui, storica della psicologia moderna, alchimia come trasformazione dell'individuo che avviene attraverso la congiunzione degli opposti, e che è un mistero, e che è un mistero come gli archetipi che poi insomma ritroviamo sempre all'interno di noi, e insomma è un po' questo album quindi dovrebbe parlare un po' della natura conflittuale della psiche, che Jung definisce poi come la dolorosa oscurità dell'anima umana. Quindi ascoltatevi questa lunga pista, il primo pezzo, il secondo brano si chiama Solve e Coagula, scusate, e è il secondo album di Uruk, perché già l'anno prima ne avevano fatto un altro, tra l'altro con la copertina del primo disco era un dipinto di John Balance. Buon ascolto, Uruk, il brano si chiama Spagiria. Sì, siete su Radio Wombat e questa è 8 Hz. Ricordatevi di spulciare bene il sito e guardare un po' tutto quello che offre come trasmissioni e anche le repliche che poi succedono un paio di giorni dopo le nostre dirette. E ascoltate anche i podcast che sono tutti caricati su Archive e caricati quindi nel sito, per cui potete ascoltare veramente di tutto, dalle informazioni a tutti i programmi di musica o ai programmi contenitore di qualsiasi forma di parlato e suono, diciamo. E questa puntata era nata anche perché, sia perché volevo farvi sentire Uruk, che era un'uscita di fine 2018, sia perché volevo farvi sentire anche Drew McDowell, che suonerà a Firenze il 2 febbraio in Sala Vanni per il Disconnect Code, che sono una serie di serate organizzate a Disconnect, e questo è il Code 1, il primo Code, insomma. E è un nomone grosso perché Drew McDowell appunto era l'altro collaboratore e membro dei Coil, non Chris Christopherson e John Balance, non era il membro fondatore, ma anche lui, come Ty Paul Sandra, e più o meno negli stessi anni ha collaborato nei dischi. Basti pensare anche solo a Sal Disaster, in cui era presente per insomma farvi capire che è stato un membro importantissimo del gruppo. Non so bene cosa faccia in questo 2 febbraio a Firenze come live, ma sicuramente sarà un bellissimo concerto. E Drew McDowell ha fatto varie cose anche come solista, e ora io ve ne faccio sentire una che è uscita per Collapse Label e Dice Records, tra l'altro una buonissima etichetta, anche il Dice che ha ristampato, sta ristampando anche qualcosa dei Coil stessi, e il disco il primo, e il brano si chiama The Chimeric Mesh Withdraw Part 1-3, quindi è quasi un'opera con tre movimenti, con tre parti. Ve la faccio ascoltare tutta e noi ci sentiamo dopo questo bellissimo e oscuro pezzo un po' più, diciamo, ambientale. Thank you. Thank you. E noi ci lasciamo con quest'ultima composizione, sempre di Drew McDowell, però sotto un altro nome, che si chiama Compound Eye, uscita nel 2013, sempre presso per la Edition Mego. Era un album abbastanza cupo, a tratti quasi molto più distorto degli altri. Tra l'altro, la copertina appunto è di Stefano Malle, ricorda anche qualcosa dei Sun, vagamente, insomma. Compound Eye era un duo formato appunto da Drew McDowell e da Tress Warren degli Psychic Hills e dei Messages. Tanti rimandi coil, ovviamente, psichedelia dark minimale, insomma, è un brano che non, di certo non vi annoierà, come spero non vi abbiano annoiato le altre tre opere. E spero tanto che vi sia piaciuto e che non abbiate staccato con la diretta e che non stacchiate neanche quando pigiate play al bottoncino dei podcast. Buon ascolto, noi ci sentiamo la settimana prossima. Ciao ciao, abbracci, ciao. Thank you.